Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Ascolto popolo di naviganti, eroi poeti santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi. Or piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a stonare. E chi ce lo fa fare? Prima fila cantino i ministri e i sottosegretari, in controcanto seguono arcivescovi con i generali, ed in falsetto le toghe d'ermellino ed i banchieri, molto suadente gorgheggi l'inquirente, le casalinghe e gli impiegati tutti del ceto medio basso, e gli operai e gli avventizi vari non devono cantare. Sottoccupati, disoccupati potranno solo fare come contrabbasso. Ma va, e chi ce lo fa fare? E chi ce lo fa fare di stare zitti ad ascoltare? Perché? Ma va, e chi ce lo fa fare? Noi siamo tutti sulla stessa barca che affonda lentamente, e mentre quelli cantano sereni a voi tocca remare. Giù con la schiena, forza a remare, che noi vi diamo il tempo, e chi ha tempo non va, si prepara ad emigrare. Ma chi ha detto che triste ser costretto a fare le valigie ed emigrare raminghi per campare dal Belgio fino in Svizzera? Basta che le valigie sian colme di valute, di contanti, ci vuole poco pochissimo per essere ma contanti. Ma va, e chi ce lo fa fare? Senti, e chi ce lo fa fare di stare zitti e di remare? Giù con la schiena, una, ma due, va, uno, e due, chi ce lo fa fare? Sì. E chi ce lo fa fare? Plaza. Salve a tutti, Radio Plaza qui in diretta da Sciano. Siamo a Sciano, siamo al Sanacore Folk Festival, finalmente ritorna dopo un po' di anni fermi, è tornato il festival. Siamo a Sciano oggi, che è il 10 luglio 2022. Questa è Radio Plaza, la radio extemporanea che compare in piazza e scompare, non si vede più. In realtà compare a volte anche dentro una scuola, come in questo caso siamo all'interno di una scuola di Sciano. Stiamo per ascoltare un'intervista speciale, specialissima oggi, le associazioni Yabasta e Nova Coenè all'interno del Sanacore Folk Festival hanno invitato Domenico Lucano, Mimì Lucano, per un'intervista. Vedremo come sarà questa intervista. Interessantissima intervista a Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, protagonista di un'avventura unica in Italia. Ricordiamo almeno che tutta la puntata di Radio Plaza la possiamo ascoltare su collettivotopia.noblogs.org. Sì, siamo in streaming sul nostro blog e ci si può contattare anche all'email collettivoutopia.chiocciolabruttocarattere.org. Brutto carattere è solo perché ogni riferimento in questo caso è puramente voluto. E allora cambia frequenza, ascolta Radio Plaza. Lo rifarei questo reato, ha dichiarato Mimì Lucano, infamato e condannato per aver abbracciato e curato persone indifese e disorientate. E noi siamo e resteremo complici di Lucano, anche in prigione. E qualcuno si chiederà, ma perché? Perché il modello Riace ci appartiene, ci accomuna, un laboratorio sociale, un progetto politico innovativo, riconosciuto e apprezzato nel mondo, ma osteggiato dalla politica e svilito dal bigottismo della burocrazia. E poi la legge. Un processo e una condanna osceni per l'ex sindaco, che però resta per tutte noi un esempio di resistenza, autonomia e libertà, senza padrone e senza paura. Hanno condannato Domenico Lucano, il testardo, il buonista, il compagno, il pazzo, Mimì Capatosta. Quello conosciuto in mezzo mondo e premiato come colui che ha trasformato l'accoglienza dei migranti, in molti casi bancomat del magna magna all'italiana, in risorsa vera. Ed ecco perché, complici di Lucano, lo siamo stati e lo saremo sempre. Viva Riace, viva Lucano, viva Radio Plaza! Ma Mimì non è il solo, e non è solo soprattutto, noi saremo complici anche di qualcun altro, di Cédric Herrou. E chi è, direste? Chi è Cédric Herrou? Chi soccorre senza se e senza ma persone disorientate e indifese, merita rispetto e sostegno. Su questo abbiamo scelto da che parte stare, e in tempi non sospetti ci siamo autodenunciati, complici di Lucano, senza se e senza ma, e non cambieremo idea, nemmeno in prigione. E so due... Ma mettiamo che ci volessero arrestare veramente e dovessimo scappare, tu dove scapperesti? Patagonia. Io invece punterei verso la Val Roya, una piccola valle al confine tra Italia e Francia, territori rurali, alpini, abitati da circa 6.000 persone, una popolazione composta da famiglie native e da piccoli nuclei provenienti dalla città alla ricerca di una vita meno frenetica e più naturale, che dagli anni 70 hanno ripopolato la valle, radunandosi intorno a una idea di decrescita, sovranità alimentare e autosufficienza legata alle piccole reti coese e solidali di produttori e consumatori locali. Ecco qua. Ecco in questa cosa. Valle vive Cédric Herrou, un contadino perseguitato dalla legge perché aiuta e sostiene i migranti che a migliaia passano per quella valle diretti in Francia, dove non è facile sconfinare, e infatti nel 2021 i respingimenti al confine italo-francese sono stati oltre 24.000. La pesante militarizzazione della frontiera rende sempre più complesso il passaggio per le persone in transito. Ma eccolo un altro capatosta, Cédric Herrou non ci sta, e contro leggi disumane e burocrati senza scrupoli, rischiando il carcere, sostiene decine di profughi, offre il suo cibo e si prende cura di loro e delle loro famiglie. Con alcuni volontari occupa un villaggio vacanze in disuso nel quale, prima di uno sgombero forzato, avevano trovato ospitalità 50 profughi. Diverse centinaia di profughi eritrei e sudanesi sono stati ospitati in roulotte e in tende allestite nel giardino di casa sua. Ma Herrou non si accontenta e va oltre. Questa gente vuole andare a attraversare il confine e lui li aiuterà, nonostante la legge, li aiuterà. E lo fa senza se e senza ma. Ma vi ricorda qualcuno? Denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e portato davanti ai giudici del Tribunale di Nizza, ai tanti giornalisti presenti quel giorno, ha dichiarato: se dobbiamo infrangere la legge per aiutare delle persone, facciamolo. E in un'altra occasione, sempre Cédric ha detto: agisco illegalmente per salvaguardare i diritti dei minori. È nostro dovere alzarci in piedi quando le cose vanno male. Per questo io continuerò. Ma vi ricorda qualcuno? Comunque un pazzo. Ma buono. E a lui va tutta la nostra ammirazione. Alziamo il livello dell'incontro. Radio Plaza. Thank you. questa è Radio Plaza, rientriamo in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org, da dove trasmettiamo le nostre fantomatiche frequenze e tutte le nostre cazzate in diretta. Ricordiamo che siamo anche dal vivo, siamo a Scisciano, siamo nel Sanacore Folk Festival 2022. Questo che abbiamo ascoltato era Lunga è la notte di Zoo, dall'album Amore non ne avremo, 26 canzoni per Peppino Impastato del 2008, edizioni Il Manifesto, un disco uscito in occasione dei 30 anni dalla morte di Peppino. Saluto a Peppino. Vabbè, e quindi va ora in onda. Ci vogliamo fermare qua, vogliamo prendere un divano, che facciamo? Andiamo avanti. E Radio Plaza presenta Lo rifarei questo reato, estratto dal documentario Riace non si arresta, registrazione effettuata il 6 e il 7 novembre 2021 a Riace. Autoproduzioni Collettivo Utopia. Ma se il Ministero degli Interni, quando i flussi migratori diventavano molto, molto consistenti, mi dicevano dobbiamo, sindaco ci deve risolvere un problema, cioè ti telefonavano, c'è un pullman che te lo dobbiamo portare. Cinque pullman sono arrivati il 29 agosto del 2008 e praticamente mi hanno avvisato tre giorni prima che c'era un'emergenza a Lampedusa. Com'era possibile una procedura di evidenza pubblica in tre giorni? In tre giorni. Sono tuoi complici. Non solo questo, ma anche per quanto riguarda, mi chiamano quando serviva per risolvere questi problemi. Io dico, a tutti ho detto sì, era diventata la nostra mission, al prescindere da chi me lo chiedeva. Per me la risposta, finché ci sono case, avevamo come indicato la soluzione che poteva riguardare anche tutti i paesi, così le periferie come Riace, dove ci sono dei centri abbandonati, dove ci sono declini demografici. E dicevo sempre di sì, ma poi le linee guida del cosiddetto SPRAR prevedevano una permanenza di soli 6 mesi. Allora qua io veramente disattendevo perché 6 mesi le persone non erano nemmeno in grado di poter comprendere il significato, e soprattutto non potevamo togliere i bambini dalla scuola. Se noi facciamo, manteniamo la scuola a Riace, quando ci sono state le norme che hanno previsto così che sotto un certo numero di iscritti non si potevano mantenere le scuole, Riace non ha avuto questo problema, aveva ribaltato anche l'indice così dove le nascite erano molto superiori ai decessi, tutti i parametri sociali che non sono il frutto di una associazione a delinquere, ma di un'attenzione sociale sul territorio, non di una, ma l'abuso d'ufficio, mi hanno condannato, non lo so per quanti anni, perché questi 10 anni e 4 mesi non lo so in quale misura, con l'avvocato con Andrea abbiamo parlato, però sono 10 anni e 4 mesi, associazione delinquere, hanno messo questo termine tecnico, si chiamano lungo permanenti, gli esseri umani sono lungo permanenti, come se, perché i 6 mesi... Che non li hai buttati fuori. Praticamente sì, ma sono, lo rifarei questo reato. Voglio dire una cosa. Scusate. Radio Plaza. Il lampionaio duro lavor, prima non era così. Lampione al mattino, lampione al tramonto ed il resto del tempo a dormire. Poi il pianeta ha preso a girare più in fretta. fretta ed ancora di più. Ora il pianeta fa un giro al minuto, un minuto è passato di già. La mia consegna è sempre quella, un minuto è passato di già. Ancora di più, e quindi accendo il lampione un minuto, poi spengo il lampione un minuto, poi accendo il lampione di nuovo un minuto, è passato di già, un minuto è passato, lo so, per dormire più tempo non ho. Il tempo più era il Lampionaio Duro Lavoro, un brano di Enrico Melozzi, orchestra notturna clandestina, dall'album Il Piccolo Principe, l'album ovviamente del 2021. Lampionaio, il Lampionaio Duro Lavoro, quello del Lampionaio. Siamo ancora su Radio Plaza in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Se funziona. Ma penso di sì. Siamo qui al Sanacore Folk Festival, oggi è 10 luglio 2022. Siamo in una puntata speciale, molto speciale, poiché tra pochi minuti, pochi secondi... Appena Carmine smette di parlare. Di parlare, sì, appena io smetto di parlare, cioè... Ora. Ok, trasmetteremo la diretta dell'intervista a Domenico Lucano, ex sindaco di Riace, come abbiamo già anticipato. Ricordiamo che l'intervista va in streaming su collettivoutopia.noblogs.org e ci siamo. Siamo pronti per l'intervista. Collettivoutopia.noblogs.org, fatelo sapere a tutte... E intanto andiamo con l'intervista a Domenico Lucano e lasciamo il microfono aperto, ma senti. Radio Plaza. Buonasera a tutti, grazie Radio Plaza, grazie al collettivo Utopia per questa bellissima introduzione. Io sono Francesco Evangelista e coordino il progetto di accoglienza di Scisciano e oggi ho, diciamo, il difficile compito di rappresentare la comunità di Iabasta Nova Coinè, che è la comunità che poi ha preso in carico il progetto di accoglienza. Una comunità variegata, una comunità eterogenea, difficile da rappresentare nelle sue tantissime forme, e sono davvero onorato di aver avuto questo compito. Oggi abbiamo vissuto, diciamo, da lontano l'esperienza di Riace, l'abbiamo ammirata, l'abbiamo condivisa nei momenti aggregativi della nostra associazione. Abbiamo subito, come tutti gli italiani per bene, diciamo, l'aggressione che c'è stata al progetto e a Mimmo Lucano. Abbiamo in qualche modo provato a dimostrare la nostra solidarietà, abbiamo partecipato alla marcia che c'è stata a Riace, una gran bella delegazione è partita qui da Scisciano, è stato un momento molto bello. E questo siamo riusciti a fare per dimostrarti, Mimmo, la nostra vicinanza. E il progetto di Riace è stato tra quelle motivazioni, quelle spinte, quelle cariche che ogni giorno ci hanno mosso per decidere di impegnarci in questa pratica che è l'accoglienza diffusa. Noi abbiamo ci siamo molto ispirati a quello che Riace ha dimostrato di poter fare. Siamo nati dal piccolo, dal basso, abbiamo sempre lavorato per favorire l'integrazione, per cercare di dimostrare che l'accoglienza porta soltanto benefici alla comunità, alla collettività. Noi abbiamo iniziato davvero andando nelle mense per i poveri a cercare persone che volessero entrare in una comunità in cui per esempio la lingua era il principale fattore per avviare i processi di integrazione, e quindi abbiamo cominciato con una piccola scuola autofinanziata in un comune limitrofo qui a Marigliano circa 12 anni fa, finché la scuola è diventata talmente grande da essere ingestibile. Abbiamo più di 100-150 alunni ogni anno da tutte le parti del mondo. Contemporaneamente a Scisciano c'era un progetto parallelo che si occupava di altre marginalità, di marginalità legate per esempio alla povertà educativa, e quindi qui a Scisciano da tantissimi anni, da ancora prima di noi, esiste questa dopo scuola per i bambini, diciamo, che sono segnalati dai servizi sociali, bambini che hanno più bisogno, ecco, di avere un accesso più libero all'educazione, hanno bisogno di assistenza. Le esperienze di Scisciano e di Marigliano si sono poi finalmente fuse, dopo anni di corteggiamenti si sono fuse, proprio per prendersi l'impegno e la responsabilità di gestire un'accoglienza che potesse avere una lunga visione, non quindi accoglienza dell'immediato, non risposta a un'emergenza, ma proprio una presa in carico per accompagnare i migranti che riescono a raggiungerci nel loro processo integrativo, nella loro volontà di affermarsi come individui, non potendolo evidentemente fare nel proprio luogo di origine. Un impegno che portiamo avanti davvero con tanta passione, con moltissime professionalità in campo, con persone che hanno rinunciato alla propria professione per impegnarsi in questo progetto. E sempre il faro che ci ha illuminato è stata Riace. Noi abbiamo sempre avuto come punto di riferimento Mimmo Lucano e la storia di Riace. Lo abbiamo detto in tutti gli incontri pubblici che abbiamo fatto, non abbiamo mai nascosto, perché Riace ci rappresenta, Riace ci ha mossi come spirito. E quindi ovviamente averti qui, Mimmo, per noi è veramente una gioia immensa. Parlo io, ma penso che al mio posto chiunque della comunità sarebbe voluto stare in questo momento e avrebbe detto esattamente le stesse parole che sto dicendo io ora. Non rubo altro tempo, ti abbiamo inviato non per parlare però nel dettaglio di quello che è successo a Riace, perché lo conosciamo davvero a fondo, abbiamo letto tutti i libri, abbiamo parlato con te, abbiamo parlato con Stefano che ci ha raccontato degli aneddoti fantastici, ma per ragionare con te sulla visione che bisogna avere, su condividere con te la visione giusta non so se ci sia una visione giusta, ma quale deve essere l'obiettivo finale, se è possibile secondo noi, secondo te, un altro mondo. E lascio la parola a Stefano, che abbiamo scelto per colloquiare con te. So che è un tuo caro amico e quindi sarà molto bello sentirvi chiacchierare. Grazie a tutti e lascio la parola a Stefano. Io tanto vi ringrazio Sciano, gli uomini e le donne che stanno facendo questo lavoro straordinario, e ringrazio anche la radio Plaza, che non conoscevo e che mi ha caricato di entusiasmo nell'iniziare questa giornata. Io sono un privilegiato, lo dico, parto subito da questo presupposto, perché per colpa di un compagno che purtroppo non c'è più e che se n'è andato il 5 giugno del 2003, il compagno Dino Frisullo, nei primi anni 2000, quando ancora non esisteva il modello Riace, io venni catapultato da Dino Frisullo a Riace e conobbi Mimmo, che per me divenne immediatamente un fratello, non un amico, non un compagno di partito, io sono anche un dirigente di partito, non qualcosa di legato semplicemente alla testa, ma qualcosa legato al cuore, detta in maniera brutale. All'epoca, parliamo di più di 20 anni fa, la frase che andava per la maggiore era una frase che io reputo tuttora molto attuale: un altro mondo è possibile. E ci abbiamo creduto che un altro mondo fosse possibile. Oserei dire che molti e molte di noi ci credono ancora che un mondo non sia soltanto possibile ma necessario. E il mondo possibile parte e necessario parte anche dall'accoglienza, parte da un rapporto con l'uomo che non è mercificato, parte da un'idea di giustizia che non è legalità fatta da geridi burocrati di Stato, fatta da un'idea di ripartizione delle risorse, di rispetto della natura, di un mondo più bello che potremmo costruire insieme. C'è chi non vuole che lo costruiamo insieme, è inutile nasconderci, e c'è chi invece come Mimmo, ma non soltanto Mimmo e non soltanto l'esperienza di Riace, ci dimostra che poi sottoterra si germogliano dei semi importanti. E io parto da una domanda apparentemente enorme, immensa, perché so che Mimmo dà le risposte immense per dialogare. E la domanda che gli faccio è: Mimmo, dopo 21 anni, ma st'altro mondo è ancora possibile? E ce la facciamo a farlo? E sottolineo, ce la facciamo. E prima di risponderti voglio ringraziare tutti per questo senso di accoglienza, di calore umano, Radio Plaza, che mi ha fatto rivivere quella sensazione di Radio Out con il sindaco di Casciano, ma tutte le persone che siete presenti. Tutte le persone che siete, vi ringrazio di cuore. E poi questa domanda, dico, io non me la sono fatta né all'inizio né oggi. Non ho seguito mai una... come visto che parliamo di visioni, il tema, e anche sono felice che comunque la storia, che quello che è successo abbia contaminato e abbia fatto, reso possibile questo riferimento che loro dicono, questa realtà che c'è qua si ispira e ha trovato ispirazione per quello che è successo a Riace. Ma in realtà questo modello Riace non esiste. Io ho detto sempre che nelle occasioni pubbliche, che cosa devo dire? Dico quello che sento di dover dire è una visione mia, è una, sono dei punti di vista, e vale per qualsiasi domanda, non voglio avere la presunzione di può darsi che è tutto sbagliato, anche oggi, anche per tutte le cose che facciamo. E questa dell'accoglienza, questo, a parte che nasce per una casualità, una coincidenza, ma è stata io non capisco niente di immigrazione, ve lo dico, non sono un esperto né di immigrazione, ma nemmeno di essere sindaco, non è che ho studiato per fare il sindaco, anzi, quando le prime volte non sapevo distinguere da una delibera, da una determina, ma proprio come tutte le cose ho seguito come degli impulsi, stata facendo ogni quello che viene dalla esigenza, dalla quotidianità, e poi anche quando parlo, anche quando nelle occasioni pubbliche seguo, non c'è nessuna premeditazione di quello che devo dire, seguo un impulso e nell'impulso ci sono delle visioni, non c'è un vincolo preordinato, e così è stato per me. Sono felice che comunque questo può produrre dà degli elementi, produce delle cose che sono la risposta poi a quel tentativo di dare contributi per poter cambiare il mondo, e sicuramente sono dei tentativi, tutto è stato un tentativo, tutto è stato un qualcosa che non mi credo. Tutto è stato un qualcosa che si può appunto definire dei tentativi, e poi diventano degli obiettivi che cerchi di inseguire, ma non è detto che raggiungi niente. Ma il tentativo ti fa muovere, stavo ragionando, a parte il riferimento, se non ci fosse stato, vabbè, Ariace è iniziato, io quando c'è stato l'ex ministro degli interni, uno dei due che hanno contribuito, paradossalmente appartenenti ad aree politiche opposte, così a livello di identificazione, poi vediamo che sono sovrapponibili, la politica spesso giustifica tutto per la strategia del potere, ma voglio dire che ho dovuto rispondere al ministro Salvini, che non solo lui, ma penso e mi assumo tutte le responsabilità, questo io l'ho imparato dall'esperienza, non da luoghi comuni, io ho fatto il sindaco 15 anni, conosco forse meglio di lui il territorio calabrese, una parte del territorio calabrese, la Locride, che dove c'è Riace, che è dentro la Calabria forse la parte più depressa, un territorio limite proprio di forti condizionamenti di famiglie di mafia, dove c'è un forte senso di rassegnazione sociale, dove da tanti anni si è cominciato a dire ormai ce ne dobbiamo andare, e allora questo ministro ha detto, ma questo sindaco vuole, cioè lui e anche la parte politica di Fratelli d'Italia, nel mio immaginario, che è la sintesi anche di esperienze, diciamo, vissute direttamente in prima linea sul territorio, secondo me sono la destra che rappresenta la costruzione di una società disumana, quel tentativo proprio, no, non hanno altro, non hanno altro, e scientificamente preoccupati, le parole solidarietà, le parole fratellanza, le parole rispetto dei diritti umani, le parole rispetto della dignità umana, queste parole sono sconvolgenti, perché il loro disegno politico è altro. E allora Riace è forse per tante coincidenze, ma anche per forti determinazioni di seguire istinti ed indole, e diventa poi qualcosa che dà fastidio, che bisogna aggredire, bisogna dimostrare che non è possibile, che non deve esistere in nessun luogo del mondo quello che ho detto prima, questo tentativo della costruzione della società, della solidarietà, dell'accoglienza, quello che è successo. E allora Salvini dice: ma questo sindaco vuole ripopolare i luoghi con le colonie che vengono dall'Africa, quindi ci sarà un'invasione, ci sarà... È stato un periodo che anche da noi è stato il primo partito. Il partito, unica persona che ad esempio, io sono stato l'altro giorno a Cecina nell'assemblea, nel congresso dell'Arci nazionale, e c'è stata una contestazione alla regione perché hanno invitato a me. Sono un fuorilegge, sono stato condannato, e chi ha parlato? La Meloni, proprio perché loro sono la destra che non è che cambia, la destra in Italia, la destra del governo israeliano, la destra di Bolsonaro, la destra americana, è quella la destra. La destra è un'idea che segue la costruzione di una società disumana, della discriminazione, che poi trova, secondo me, uno degli esempi più sconvolgenti quando addirittura in una mensa nel nord Italia a dei bambini viene pure impedito di mangiare perché non hanno... E ecco che cos'è, questa è la grande differenza. Allora Salvini dice, questo sindaco, io per difendermi ho detto, proprio perché apparentemente può essere anche... impossibile, da dove tutti vanno via noi dobbiamo favorire l'immigrazione. Io semplicemente ho detto: ma è stato forse responsabile il vento e il mare, perché così è nata la storia, una storia, anche ho detto questo modello, ma è il modello dei Rom, è il modello della libertà. Non c'è stato, mi hanno chiesto tante volte: ma dove ce l'hai questi progetti? Persone che venivano con l'intenzione di studiare quel fenomeno sociale, ma dove sono? Ma guardate, io non è che non ve li voglio dare, semplicemente non ho nulla, non ho niente. Io quello che ho fatto ogni giorno, senza nessuna premeditazione. Poi diventa strategia, ovviamente capisco che da sindaco mi conviene perché do risposta al territorio, un territorio che attento ad andare via, ad avere i bagagli pronti per andare via, per quindi rimangono queste comunità fantasma dove non c'è più nessuno. Allora io semplicemente ho cercato poi di fare gli interessi del territorio, di costruire una piccola società globale, ed è stato bellissimo questo, è stato straordinario, anche da un punto di vista estetico. Io ho pensato anche un'altra cosa, che mettiamo, se tu conosci una persona, no? E quella persona, tu hai un pregiudizio, ma chi siamo noi per avere un pregiudizio verso un altro essere umano? Mi sta antipatico, ce l'ha il colore della pelle diverso, mi fa schifo, ma chi siamo noi ad avere un rapporto con un essere umano che praticamente è determinato da un grave pregiudizio? Allora io penso, nella psichiatria esiste questo. Quando ci sono delle persone che hanno dei disturbi del comportamento, allora c'è una sensazione di stare attento, di avere paura. Allora credo che il fenomeno così della discriminazione, il tentativo di volere di avere pregiudizi, fa parte di un viene definito proprio in termini medici un disturbo del comportamento. Quella parte politica che ha così fortemente caratterizzato una stagione di grave violazione, di non rispetto dei diritti umani, nasce da un disturbo del comportamento. Devono dimostrare il contrario. Ecco, io il contributo che ho voluto anche dare, poi come seguendo questa strategia, oltre che indicare delle soluzioni per quelle che sono definite le emergenze abitative, non utilizziamo non destiniamo le baraccopoli, le tendopoli. I paesi della Calabria, i paesi dell'interno, sono agglomerati di case abbandonate. È una vergogna se noi destiniamo, ce ne sono tanti, non solo, ma contribuiamo alla rigenerazione urbana e sociale dei luoghi. Ci conviene l'accoglienza. Facciamo che ha una duplice convenienza, anche per le persone. Se l'accoglienza è dolce, se non è aggressiva, se non è per nulla pregiudiziale, se è quella che è stata la normalità dei rapporti umani, è un fatto che è un'occasione straordinaria. Questo è stato il modello Riace. Per dare con un aneddoto, gli aneddoti di cui parlava Francesco, l'idea di quello che dice Mimmo, ve ne racconto una molto breve. Non so se Mimmo se la ricorda. A me capitò di essere a Riace e di venire rapito da due bambine curde, una nata in Kurdistan e una nata a Riace. Una aveva 9 anni, l'altra 5 anni. Quella più grande mi disse: tu non la conosci Riace, vero? Io faccio: beh, abbastanza. No, tu non la conosci, vieni con noi. E le due bambine mi portarono in giro per i vicoli di Riace a dirmi chi abitava in ogni singola casa. Io dalle finestre, dalle persiane chiuse, perché era un pomeriggio caldo, vedevo le persone guardare. Beh, il pericolo, lo straniero, non erano le due bambine, ero io. Quello significa aver costruito un mondo, una parte di mondo diverso. Non è un modello, ha ragione Mimmo, non è un modello. Chi parla di modelli è perché ne ha un altro in testa che è terribile magari. È un aver costruito vita, un aver costruito convivenza, un aver costruito... utilizzo una parola molto politica, amore. Secondo me è una parola terribilmente politica. Aver rotto il binomio infelicità e solitudine a cui ci vogliono costruire, aver fatto ridiventare i luoghi belli in cui stai bene, e stai bene con delle persone con cui stai bene e non guardi il colore della pelle, non guardi da dove arrivano, non guardi se sono musulmani o se sono atei come il sottoscritto, se sono credenti. Guardi il fatto che sono persone con cui insieme rompi la tua solitudine e quindi diventi più capace di affrontare le difficoltà per vivere. Però proprio per questo domando, parlo con Mimmo e mi interrogo, perché interrogo anche me stesso. Ma noi, sì è vero, funzionano le contaminazioni, ma ci rendiamo conto, tu hai viaggiato parecchio per l'Italia e per l'Europa in questo periodo tanto duro, quanti sono i posti in cui, come a Riace, come a Scisciano, si costruisce nel silenzio dei media e nel silenzio dei poteri disumani di cui parli tu, una società diversa. Secondo me sono tanti e dovremmo imparare a farli incontrare, a farli conoscere di più. Pensi che sia giusto come ragionamento, che sia ingenuo? Sì, sì, ma l'importante è che potrei rispondere che noi siamo, voi ci siete, così anche se non ci conosciamo, anche se non ci incontriamo, fa parte delle relazioni, sarà sempre così. Siamo forse una minoranza, e anche inevitabilmente per me, come sindaco, ovviamente mi sono interessato anche di politica, pensando che lo strumento per poter dare contributi più importanti, più, io mi ricordo che questa incertezza se partecipare alle elezioni, io provengo dalla militanza dei movimenti della politica, una volta si chiamava sinistra extraparlamentare, e come devo dire, per riassumere, ovviamente facendo il sindaco ho avuto delle opportunità, è stato uno strumento importante, ma le prime volte è stato un fallimento. La prima volta che mi sono candidato alle elezioni comunali, perché c'era l'idea di ripartire dai piccoli governi locali, dalle periferie. Il comune di Riace è come comune ha due agglomerati urbani, uno sulla Marina e uno al centro storico, 7 chilometri di distanza, e ripartire dalle periferie significava, nel mio immaginario, perché io sono un abitante di Riace Superiore, a un certo punto tutti hanno pensato, oltre all'emigrazione, c'è stata un'emigrazione verso giù, verso la Marina, come luogo più rispondente ad una società legata ad un'idea più consumistica, più dove ci sono i supermercati, gli ipermercati. Il luogo invece originario, questa Riace, dove c'era stata la storia della borghesia agraria, dei braccianti, dei pastori, dei contadini, è diventato un luogo abbandonato, dove era impensabile riuscire a ristabilire, a riportare l'asse proprio ripartendo dalle periferie. Poi, ecco, come sindaco, per 15 anni non abbiamo concesso mai una concessione edilizia per consumare superficie edificabile sulla spiaggia, interrompendo da subito quel ciclo dove le mafie poi rappresentano il vertice di quella catena e che impongono il dominio economico, ma anche sociale spesso. Allora, che cosa mi sono occupato? E questo è stato, secondo me, un livello quasi impossibile, che si può comunque, con una idea di militanza della cosa pubblica, proprio cercando in tutti i modi possibili, e anche utilizzando l'accoglienza, perché con l'accoglienza io potevo dare, come sindaco, come comune, diamo risposte al territorio, perché aumenta in maniera forte l'indice occupazionale, perché tanti devono gestire i progetti. Poi ci trovavamo di fronte penso degli spunti che valgono anche per chi come voi vi occupate di questi progetti, ma anche per il sindaco, perché con i progetti di accoglienza interferisci su degli aspetti che sono importanti per il territorio, e appunto la mancanza di lavoro è uno delle più forti criticità del territorio, e il progetto di accoglienza con le equipe di gestione ci dava la possibilità di determinare anche un indice di occupazione che era del tutto inaspettato. Quindi che cosa scatta nella comunità? La percezione che è una cosa, oltre che aveva risvegliato l'identità, quello era come devo dire, un auspicio per me, risvegliare l'identità dei luoghi, un'identità dove lo straniero è accolto, perché anche nel passato c'era questa convinzione che se tu lo accogli ti conviene, perché capisci le sue intenzioni. Quindi sono comunità, da un punto di vista antropologico, anche organizzate per accogliere e non per escludere o per mandare via. Addirittura poi nelle condizioni così dove si sono sviluppati questi progetti c'è poi la possibilità di capire che c'è una utilità importantissima come indice di occupazione. Poi ci sono stati questi obblighi di fare una selezione pubblica, di fare partecipare. Io mi ricordo, facemmo tanti anni fa un progetto di accoglienza per degli iracheno-palestinesi, e forse siamo stato l'unico progetto in Italia a partecipare, perché c'era l'obbligo di fare una procedura di selezione pubblica a livello nazionale. Poi arrivavano delle holding a livello, cioè la scelta tra una selezione pubblica e un affidamento diretto alle cooperative sociali del terzo settore, a chi vive sul territorio, era tra una scelta, come devo dire, di rispetto delle risorse pubbliche per fare una selezione, ma attenzione, significava anche accettare holding che venivano dal nord Italia e impoveriscono da quel punto di vista, e l'accoglienza diventa incomprensibile per le persone del luogo, costretti i giovani ad andare via. Quindi uno degli obiettivi più importanti si poteva perdere, ecco. E questa percezione di ripartire dalle periferie è stato un percorso che mi ha portato a fare il consigliere prima della minoranza, e poi nel 2004 per strane coincidenze, perché si era frammentato il fronte politico, alla fine sono diventato sindaco. Poi nel 2009 sono stato riconfermato, poi nel 2014 anche, ed è un caso che non ce ne sono tanti in Calabria di sindaci che proveniamo da un orizzonte politico non definibile con i partiti, ma da esperienze e da ideali della sinistra utopica, immaginaria, dico io spesso, che non esiste, però esiste nell'intenzione quindi di muoverti e di seguire quegli ideali. E credo che a un certo punto, perché la mia storia poi amministrativa si interrompe, istituzionale, questa parola non mi piace proprio, io non ho fatto fatica proprio quando sono stato eletto sindaco, un mio amico, un compagno mi ha regalato un libro, L'arte di non governare. È bellissimo questo. Ma non ho fatto fatica perché probabilmente avevo gli anticorpi, aspettavo, volevo dare un contributo per dire, spesso ci dobbiamo parlare chiaro, la sinistra ha disatteso, quando disattende, quando diventa parte che deve decidere, che deve governare, no? Finché siamo all'opposizione è la fase delle rivendicazioni, poi quando sei al cosiddetto potere, questa parola comincia ad essere, allora io una volta raggiunto quel potere, ma non mi è costato nulla per anzi approfittare di quella circostanza per sminuire il valore istituzionale, l'autorità che rappresentavo, a vantaggio di un ideale che è il nostro ideale. Mi immagino così quello che oggi vedo qua, c'è un respiro politico dietro questa storia di accoglienza, ed è per me una bellissima sensazione. Cioè, io alla fine mi consideravo quasi un infiltrato dentro le istituzioni, e ho pensato, quando si sono accorti è scattata questa, cioè, hanno considerato probabilmente Riace come una punta avanzata di un ideale politico pericoloso, perché poi non si spiega, giusto? No, noi adesso siamo nella fase del processo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, e è successo un fatto eclatante, ma più della stampa, no? Perché ci sono tante cose eclatanti in questa storia, ma credo che il messaggio, ma non lo dico perché non ho mai voluto costruire alibi o trovare giustificazioni per sembrare che voglio allontanarmi da quelle che sono le accuse, i reati, e poi lo dico apertamente dove vado anche qua, che non sono innocente, io non sono innocente, sono colpevole, è vero, tutti quei reati che mi contestano, ho fatto quei reati, ma li farei di nuovo, uguale. Quando abbiamo deciso di fare il ricorso in appello, c'era da discutere con gli avvocati, tra l'altro uno degli avvocati è una persona famosa perché è stato sindaco a Milano, si chiama Giuliano Pisapia, è stato lui che mi ha chiesto, perché è morto l'avvocato quando è iniziata questa storia giudiziaria, uno dei due avvocati è morto, allora è stato lui che mi ha chiesto, per me è stato bellissimo questo, perché Giuliano Pisapia è stato l'avvocato di Ocalan, è una persona vicino anche a Luigi Saraceni, che c'è una storia, sono queste persone che, come devo dire, che hanno dato un contributo all'avanguardia politica della sinistra, quando è entrata, come nel caso di Ocalan, per la storia così di aggressione della polizia turca. Ancora oggi Ocalan è praticamente in un carcere a vita, che è stato Giuliano Pisapia è stato l'avvocato di Ocalan, e mi ha chiesto, ma cosa dobbiamo fare? Ovviamente la persona condannata deve anche dare una risposta, no? Ma dobbiamo fare come un patteggiamento, dobbiamo chiedere, io non voglio chiedere nulla, voglio e non voglio rinunciare a nulla, nel senso che se no il contributo che ho dato, che posso dare, no, ad una causa ideale si sminuisce e non resta nulla. Io non voglio, se loro mi dicono ma tu rinunci, magari troviamo una soluzione di dire invece di 13 anni e 2 mesi ne fai, che ne so, un anno, 5 mesi, 2 mesi, però devi rinunciare pubblicamente, devi ridimensionare questa scelta di un ideale politico che dietro l'accoglienza, la solidarietà, la fraternità, c'è il nostro ideale politico. Il resto, la destra, è un ideale di disumanità. Io non rinuncio per niente, voglio fare tutti i 13 anni e non rinuncio manco a un giorno, lo possono apertamente dire. È qua che è importante, e allora credo che quando si accorgono succede questo tentativo di delegittimare e anche di dimostrare, di riportare in un alveo, di fare scomparire il messaggio. Perché se penso io così, e le sensazioni che ho vissuto in tutto questo periodo ve le voglio trasmettere, penso che non ero io come l'obiettivo, come se che mi danno tanti anni, certo, quando nelle condanne per mafia, noi come nella Calabria, così ma credo un po' ovunque, siamo abituati a pensare che quando ci sono le sentenze sui giornali per persone anche che conosciamo, più uno è forte nella gerarchia mafiosa, più anni prende, fino al 41 bis. E allora con me hanno voluto punirmi 13 anni e 2 mesi, e anche gli avvocati, anche chi si occupa di diritto penale, dice ma sono rimasti come in qualche modo sconvolti, perché ma questi reati non giustificano una pena così, così forte. O è stato il tentativo proprio di dimostrare, ma questo era avanzato nell'ipotesi politica, quindi dobbiamo punirlo in maniera esemplare, e potrebbe essere questa una ipotesi, non sono sicuro. Io come sensazione ho avvertito anche la sensazione che il giudice che mi ha condannato ha voluto aiutarmi, ha voluto dire ma voglio fare una condanna così forte, che ha raddoppiato la richiesta della procura di 7 anni e 11 mesi, ha raddoppiato per rendere inverosimile quella, perché tra l'altro io ero incensurato, non avevo mai avuto problemi con la giustizia, e quindi perché raddoppiare la pena? E nel corso di tutto il dibattito processuale intanto mi aveva reso una persona libera, perché è stato lui che mi ha revocato le misure cautelari il 5 settembre del 2019, è stato lui che mi ha fatto tornare a votare a Riace, perché la procura mi aveva messo parere negativo e lui aveva scritto poi nel dispositivo di autorizzazione perché è un diritto costituzionalmente garantito. Praticamente a questo giudice io lo vedo come una persona a cui io non riesco a provare rancore. Penso che quando parlavo nelle dichiarazioni spontanee aveva quasi simpatia di quello che dico, sono sicuro di questo, è una sensazione che ho provato tante volte, ma è confermata anche dagli avvocati, perché ad esempio ho visto che la radio hanno parlato di quell'intervista dei 6 mesi, della permanenza, ne ho parlato anche con Alessio in macchina mentre che venivamo qua, queste linee guida dello SPRAR che prevedono 6 mesi, ma il giudice diceva, ma rivolgendosi all'accusa nel corso del dibattito, ma scusatemi, praticamente interferiva facendo la parte degli avvocati, dice, e questo è sconvolgente, perché poi mi ha condannato come abuso d'ufficio, e per quello io vi dico che rifarei tutto, perché che cosa significa abuso d'ufficio? Significa che ho trattenuto, ho dato disposizione ai soggetti gestori, ma su questo avevo alzato la voce anche nelle occasioni dei tavoli tecnici a Roma, per dire 6 mesi non ho nulla, ma mi dicevano ma lei quanto, anche ironicamente, quanto prevede di poter fare fermare le persone come in una villeggiatura? Pensavo, perché è quasi un fatto di obbligo che tutte il sistema normativo che riguarda l'immigrazione deve essere con norme restrittive. Ma cosa c'entra la prefettura con l'accoglienza? Cosa c'entra il Ministero degli Interni? Ma è sempre, sembra una materia di interesse di interesse quasi, come devo dire, militare. Invece le politiche sociali, Riace è stato un welfare dell'accoglienza, non dovrebbe essere. Poi addirittura quando c'è stato il governo Berlusconi è stato il colmo, perché la competenza l'hanno data alla protezione civile, come una calamità naturale. Vi ricordate quando c'è stata l'emergenza in Nord Africa, i dipartimenti regionali di protezione civile hanno avuto la competenza di gestire, hanno cercato di trovare una linea parallela allo SPRAR, è stato un fallimento. In Calabria è stata tra l'altro avevano il budget pro capite pro die, l'avevano portato l'avevano quasi raddoppiato. Allora io voglio dire che il giudice nella fase del dibattito del processo apertamente aveva detto: ma cosa deve fare il sindaco? Deve mettere le persone nella strada. E poi perché lo chiamate? La prefettura, il ministero? Quindi c'è stato un concorso. Se ha sbagliato, avete sbagliato pure voi. Ma per tante altre cose. Allora, come mai poi quella sentenza? Oltre all'abuso d'ufficio, poi diventa truffa aggravata. Perché? Perché ho determinato un costo, e hanno trovato un'altra definizione per i non aventi diritto, anche se qua c'è un equivoco di fondo, visto che vi interessate tutti, la maggior parte di questo progetto, che sono nuovi inserimenti o che sono lungo permanenti. Da un punto di vista economico non cambia nulla, perché il contributo che viene assegnato all'ente locale è sulla base dei posti del decreto. Semplicemente non ci possiamo rendere complici di una disumanità, non di disattendere la legge, perché hanno detto tutti, certo, ci sono state occasioni in cui i governi di destra hanno toccato il fondo, quando addirittura favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre una persona sta negando, non so se avete visto i fantasmi di Portopalo, praticamente per la destra, per i governanti della destra, era favoreggiamento aiutare una persona che sta negando, mentre si vede solo il braccio che scende nel mare, un pescatore o qualcuno che è vicino lo deve lasciare annegare e morire. Quello significa avere un incubo per tutta la vita, e questo hanno toccato il limite. Quello non è, nessuna legge può giustificare che tu non puoi, che una persona che sta vicino, che sta per annegare, non la puoi soccorrere. Questo è un tentativo. Ecco perché vi dicevo che è un delirio della destra contro l'umanità, è un delirio contro l'umanità. E quindi abuso d'ufficio, truffa aggravata, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è servito per cacciarmi da sindaco, per un matrimonio tra due persone che tra l'altro era anche irregolare. Il PM mi ha contestato, mi ha detto: ma parliamoci chiaro sindaco, ma lei era cosciente, se erano innamorati questi due? Ho detto: ma pare che dipende dal sindaco questo, cioè, no, non è, almeno mi pare che non, io non era una domanda anche che la possiamo fare, ma qualsiasi risposta può essere attendibile o disattendibile, non è che, l'importante è che almeno erano regolari così le procedure burocratiche. E mi hanno condannato per favoreggiamento, mi hanno messo le misure cautelari e con l'obbligo di non dimora a Riace, e anche per l'affidamento delle raccolte dei rifiuti, che poi diventa una condanna anche nel processo. E poi mi hanno condannato per peculato, e in pratica tutto il sistema dell'accoglienza che abbiamo costruito nel centro storico, anno dopo anno, cercando di costruire delle opportunità per il dopo progetto, facendo in modo che con i 35 euro, ma prima erano meno di 35 euro, uno poteva affrontare la fase ordinaria dell'accoglienza, ma anche la fase dell'integrazione, che è quella più importante. Nei nostri comuni l'economia è povera, non serve solo mangiare e dormire, quello è il minimo che puoi spendere. Ecco perché l'idea di costruire laboratori, frantoio sociale, fattoria sociale, parco giochi, scuole, l'asilo. E mi hanno detto che è una distrazione, ma io poi il colonnello della Guardia di Finanza, ecco forse perché è nato un caso, in fase anche perché lui il test dell'accusa, quello che ha fatto le indagini, diceva: ma questo sindaco però non ha un euro, abbiamo visto, non ha queste motivazioni, mi intercettavano ovunque. Dice: ma allora che cosa? Forse motivi politici, ma io mi sono candidato solo come sindaco, non ho mai accettato anche come elezione per il Parlamento europeo. E praticamente ha detto queste cose il colonnello, ma alla fine io non ho rubato, non ho ammazzato nessuno, non ho fatto il trafficante della droga, con la mafia sono stato completamente antitetico, anche oggi prendo posizioni aperte verso... E poi mi hanno condannato per associazione a delinquere. Vi voglio proprio raccontare che quando nelle ultime fasi quando stava per finire il processo, la difesa deve trovare dei testimoni importanti, mi dicevano gli avvocati. E allora ce l'ho avuto spesso un livello anche di confusione, io non mi ricordavo. Poi mi è venuto in mente, come è iniziato questa idea dell'accoglienza? È una domanda importante questa, perché ci sono tanti, se uno si rapporta come nel caso di voi, che c'è un ideale politico, c'è una scelta, c'è una partecipazione della coscienza, allora, per me quello è già una forte predisposizione per fare nascere poi le occasioni per l'accoglienza. Ma la maggior parte dei progetti non ti dicono delle risposte che sono banali, per buonismo, per... Allora, come hai iniziato? Io veramente manco mi ricordavo bene. Ovviamente sono stato sempre un militante della sinistra, però non mi ricordavo bene. Ma non ti ricordi? Poi ho avuto tutto un flash, come ha ricordato Stefano, ho conosciuto anche Dino Frisullo, ma Dino Frisullo l'ho conosciuto un po' più tardi, quando già non ero sindaco ancora, però poi ho fatto mente locale, mi sono concentrato, ho detto: ma a me, oltre che c'è stato lo sbarco e poi quelle persone erano state portate presso una struttura che si chiama la Casa del Pellegrino a Riace, 2 chilometri dal centro abitato, quello che mi ha coinvolto, quello che mi ha chiesto di fare il volontario proprio personalmente, me l'ha chiesto un vescovo. ha detto l'avvocato: allora dobbiamo chiamarlo. E poi con lui io sono stato vicino, perché il vescovo si lamentava che la curia, i preti non seguivano, erano impegnati a cantare messe, e quindi dell'accoglienza dei profughi curdi che erano in questa struttura, più di 200 persone, stava arrivando l'inverno e il vescovo era solo e ha chiesto il mio aiuto. Così: ma tu chi sei? Non ci conosciamo per niente, ma tu chi sei? Sono un militante. Ah sì, dice, ma alla fine ci siamo trovati. E questo è una cosa importante, perché lui era un ex prete operaio, viene da Trento. Monsignor Brigantini, sì. Allora, lui ha dato una profondità alle mie, alle nostre idee. Io ero sempre convinto che c'è una convergenza tra l'utopia sociale e l'utopia cristiana. Anche da sindaco non ho frequentato la chiesa, anche nelle occasioni di queste feste patronali con la fascia, non è che sono state il mio forte, non avevo mai questa... Però il pensiero invece che il messaggio evangelico e il messaggio dell'utopia sociale politica hanno una uguale convergenza, un unico orizzonte. Sono sempre più convinto di questo. E lui mi raccontava della riforma agraria nel Brasile, la scelta dei vescovi di stare dalla parte degli indios, anche sfidando gli squadroni della morte per quanto riguarda la ripartizione dei terreni ai semiterra, e tanti sono morti come Oscar Romero. Quindi quella è una fase della storia della Chiesa che Bragantini l'abbiamo vissuta per l'accoglienza allo stesso modo, ed è stato lui il testimone che è venuto nel tribunale di Locri a dire senza esitazione. Io pensavo che lui trovasse una giustificazione, c'è il Covid, invece ha voluto essere presente, è venuto con il treno, a essere testimone dopo 23 anni che lui mi aveva chiesto, che io quasi stavo rifiutando, io se devo andare vado così, non perché sono compagni del PKK, sono miei compagni, e lui ha detto va bene, ma l'importante, non ti sto chiedendo di venire a messa, mi ha detto, mi ricordo, però è venuto a fare il testimone, a dire a questo ex sindaco, io gliel'ho chiesto, con lui l'abbiamo fatto l'associazione a delinquere. Il PM però non è stato condannato, lui non è stato condannato, ma ha avuto l'orgoglio di ricordarsi quello che era avvenuto 23 anni prima. E non solo, ma quando il PM ha detto, perché ha fatto una testimonianza bellissima, questo è stato un luogo profetico, è stato un luogo praticamente che ha iniziato un percorso, ecco perché la contaminazione di cui parlava Francesco. E il PM dice, ma quando lei è stato vescovo, pensando di neutralizzare, sono stato vescovo dal 1994 al 2007. E allora ha detto questo mi basta, voleva dire la storia giudiziaria inizia il 2016 con il governo Minniti, Salvini, i due ministri che hanno avuto interferenze tramite la prefettura di Reggio Calabria con il comune di Riace, sono stati loro. È una fase della politica italiana in cui l'area progressista crede di intercettare, e questa è una mia personale ricostruzione, crede di intercettare il consenso rincorrendo le politiche disumane della destra. Non si spiega gli accordi con i lager libici fatti proprio da Minniti, infatti, che apre la strada ai decreti sicurezza di Salvini. Un piccolo comune metteva in discussione, diceva c'è un'altra soluzione, non dei lager, non delle baraccopoli, non delle tendopoli, del rispetto della dignità umana e dei diritti umani, e addirittura ci conviene pure perché c'è una rigenerazione sociale, una rigenerazione umana. E allora dice ma lei è stato, no, non c'entra, però prima di andare via ha ringraziato il vescovo e ha tirato fuori, vabbè, sono cose che appartengono ad una dimensione, come devo dire, religiosa, però secondo me hanno un valore perché sul piano morale soprattutto, perché lui dice ma io vi invito a leggere questo libro dell'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, tante cose sono scritte qua, le abbiamo fatte con Mimmo tanti anni fa. Quindi questa associazione a delinquere l'ho fatta con lui, l'ho fatta con padre Alex Zanotelli, che dice, è bellissimo quando dice padre Alex, come può un cristiano votare per Salvini? È una frase profetica questa qua, due parole, non serve tanto fare dei comizi, due parole bastano, come pure che ce l'hai il Padre Nostro, ma se tu ce l'hai quest'odio verso gli esseri umani, questa cattiveria, ma invece il cristianesimo è amore, come è possibile questo? associazione a delinquere, quindi questi quattro reati, il peculato è quello più eclatante, perché ancora oggi a Riace c'è l'accoglienza di famiglie di Afghanistan. Devo ringraziare pubblicamente, è venuta a salutarmi Laura, che è una donna di Napoli e che con altre persone di Napoli vengono a Riace e loro danno sostegno morale soprattutto alla mia storia, all'accoglienza, e addirittura hanno fatto una raccolta fondi per pagare il viaggio di questi profughi che vengono dall'Afghanistan e che sono arrivati a Riace. Si chiama La mano sulla roccia. E l'accoglienza a Riace c'è, dove loro hanno detto che c'è il peculato, pure che no, io non ho nulla intestato a me, loro pensavano come politico che avevo, non hanno trovato nulla, ma semplicemente perché non ho nulla. È una cosa banale, però si devono fare. Anche il colonnello ha detto, quando ci siamo lasciati per la conclusione dell'indagine, mi ha abbracciato, ha detto: sindaco, per aiutare gli altri, mi ha detto queste due parole. Comunque era un poco dispiaciuto, ma e poi con questi quattro reati mi hanno messo 10 anni e 4 mesi, poi altri due reati, e chiudo qua perché se no non voglio annoiarvi. Mi hanno messo un reato, questo reato, questa condanna è proprio l'evidenza di come il messaggio è quello di dire: dobbiamo punire come l'altruismo, come un atto, anche gli atti di generosità, e meno male che così per le persone. Sono atti che non è che sono, come devo dire, sono, c'è una strategia, che è un attimo che ci metti. Quando io sono diventato responsabile dell'ufficio anagrafe del comune, perché il responsabile era andato in pensione, mi trovavo per la prima volta con le carte d'identità, c'era l'impiegata del comune, tra l'altro nemmeno organica come personale, era una cosiddetta lavoratrice della pubblica utilità. Mi ha ripreso pure come sindaco, mi ha ripreso dove io ero responsabile perché ero andato in pensione, sotto i 3.000 abitanti, il sindaco o un componente della giunta comunale può avere quel ruolo, può svolgere quel ruolo, e a zero oneri per il comune l'ho fatto io. Si presenta una famiglia di persone del sud, con tanti bambini, e devono pagare, non è che sapevo tanto bene quanto è che si deve pagare o meno, ma io ero sindaco dal 2004, ma non mi ero mai interessato di questo. Poi come responsabile nemmeno tanto sapevo, è stata l'impiegata che mi ha ripreso: si vede che ti devi pagare, perché si pagano i diritti di segreteria, 5,35 euro, c'era scritto sul retro della carta d'identità. Mi sembrava una cosa esagerata, a parte che quei rifugiati non ce l'avevano, erano 8-9 persone, no? Poi l'impiegata, quando sono andati via loro, dice: vedi che ti devi pagare. Dice: ma non ti preoccupare, gli ho detto io, non ti preoccupare. Però questo mi ha fatto pensare, mi ha fatto: ma quanto costa una carta d'identità? Ma alla prefettura, da quel momento, li ho comprati io con i miei soldi, della mia misera indennità, li ho comprati io, e andavo con la macchina, non comune di Riace, ma con la mia macchina, e non ho portato mai un rimborso, manco per una tazzina di caffè. Io davo valore a quello che facevo, entusiasmo, perché per me è stato fare come una militanza politica. E praticamente dovevo fare sul piano formale un atto per dire: non ci paghiamo più queste carte d'identità. Ovviamente non potevo fare una discriminazione all'incontrario, e così da quel giorno a Riace fino al 2018, quando mi hanno arrestato, le carte d'identità non si sono più pagate, ma le ho pagate sempre io. Non volevo essere ringraziato, ma che mi condannavano per più di un anno di galera per questo è una cosa. Tu mi stai dicendo: ti dobbiamo punire perché hai avuto un atto così istintivo, per dire, ma poi se analizziamo, io mi auguro che ho aperto anche da questo punto di vista, ma perché si devono pagare questi soldi? È un diritto dei cittadini, e perché devono pagare lo so che la cifra è irrisoria, forse adesso ci sono le carte d'identità elettroniche, si paga di più, però è un diritto. E allora perché dobbiamo pagare? Beh, sui tributi si gioca una partita importante dei comuni e non possiamo dire là che trovare scuse, perché dipende da noi, è una materia che è, come devo dire, è, dipende dalla sensibilità politica, è una scelta politica. Enrico Berlinguer diceva: chi ha molto paga molto, chi ha poco paga poco, chi non ha niente non deve pagare niente. Sono d'accordo io su questo. Questa è la scelta politica della sinistra. E ogni volta quando prima dell'approvazione del bilancio di previsione dobbiamo determinare il sistema tariffario, io mi ricordavo di Enrico Berlinguer e mi regolavo in quel modo, per l'acqua, per tutte le cose. E allora ero felice di aver risolto un tributo. Mi auguro che nel futuro tutti i comuni non faranno pagare più queste stupidaggini che devono essere, e tutta la burocrazia, una macchina che anche vuole la sua economia e la succhia ai cittadini, perché sennò non ha senso. Poi sui rifiuti, questo ci servirebbe solo un giorno per parlare di questo argomento. In una terra come la Calabria, dove tutta la filiera dei rifiuti, io l'ho capito stata facendo perché ci è voluto un po' di tempo, ma vedevo ogni anno che quando facciamo la gara d'appalto si aggiudica sempre una unica ditta partecipante che gestisce 50 o 60 comuni. Ho parlato col tecnico comunale dopo un po' di anni: ma scusami, ma il servizio è carente, ma da un rifiuto possiamo costruire una risorsa? Perché i tributi li paghiamo a livello locale, ci sono tanti disoccupati, tanti rifugiati che hanno bisogno di lavoro, noi possiamo costruire forme di integrazione lavorativa semplicemente. E come facciamo? Dice: non puoi farlo, perché mi ha detto il tecnico. Il segretario comunale mi ha detto invece che si può fare un affidamento diretto, quindi l'atto deliberativo era legittimo, se ci manteniamo sotto la soglia comunitaria di 150.000 euro. Allora abbiamo costruito attraverso delle assemblee pubbliche, quindi il sistema partecipativo, quello che loro hanno definito turbativa d'asta, per me è stata un'idea partecipativa dei cittadini con il comune, per costruire due cooperative sociali a cui affidare la gestione delle raccolte dei rifiuti, in una terra dove questa gestione è nelle mani di chi spesso occulta i rifiuti radioattivi nel mare, nella terra, i rifiuti pericolosi. È tutta una filiera un poco dominata anche in questo caso da chi sta al vertice di questo meccanismo, che è la mafia. Io mi faceva schifo pensare che devo avere a che fare, volevo un'aria nuova. Poi mi ricordo che c'è stata anche la contestazione: ma dove troviamo le risorse per comprare il compattatore costa molto, mi volevano comprimere. E quando la determinazione, diciamo, e il livello anche di non lo so se devo utilizzare questa parola, maturità politica o meno, allora l'ho trovata la soluzione. Non c'è bisogno di macchine. Una volta nelle nostre contrade si utilizzavano gli asini, con 10.000 euro per 5 asini, 6 asini ci bastano per un anno. Sono animali che, ed è stato bellissimo questo, di fare questa raccolta differenziata con gli asini nei borghi rurali, e non si pagava né bollo né assicurazione né consumo di carburante, c'era il rispetto da un punto di vista dell'inquinamento dell'ambiente, a zero emissioni di biossido di azoto, di anidride carbonica. Questo è stato bene. Come mi hanno fatto? Mi hanno condannato. Questa è la mia condanna. Allora, noi purtroppo dobbiamo chiudere adesso, perché c'è una bella sorpresa per tutti, in particolare per Mimmo, perché a Mimmo che è dedicata la sorpresa. Io vorrei chiudere in maniera molto secca, però dando due auguri. Il primo augurio, che riguarda Mimmo ma riguarda tutti noi, è che lui venga assolto per colpevolezza. Il paese... Quello che hai detto è bellissimo, proprio racchiude tutto il senso di questo incontro. Il paese intero cambierebbe se ci fosse un verdetto di questo tipo. E la seconda cosa che voglio dire è un timore. A novembre ci sarà il rinnovo, se non cambiano le leggi, di quell'infame accordo di cui parlava Mimmo fra il governo italiano e il governo libico, attraverso cui si mantengono decine di migliaia di persone nei lager dove vengono uccisi, torturati, stuprate uomini, donne e bambini, dove in 2 anni sono state rimandate indietro 60.000 persone. È un crimine contro l'umanità questo. Io vorrei, a me piacerebbe, anch'io sono un utopista, è una delle tante motivazioni per cui mi sento vicino fratello a Mimmo, vorrei che potessimo festeggiare insieme queste due cose, gli accordi che vengono fatti saltare e Mimmo Lucano assolto per colpevolezza. Grazie e buona serata a tutti e a tutte. Se posso, per riportare come nell'attualità, visto che la stampa ha riportato in questi ultimi giorni, sicuramente avrete letto, tutti i giornali nazionali hanno parlato che c'è stata una manipolazione delle intercettazioni e che una era stata completamente occultata e che cambia tutto il senso e che apre uno scenario. Ma perché hanno fatto questo? Perché il giudice mi ha condannato e prima era apertamente nel processo? Ma chi è la mano? Allora che cos'è la giustizia? Questo è l'interrogativo. Quali sono i rapporti? È una cosa che, come devo dire, io sono uno che inconsapevolmente sono diventato una persona nota. E chi non è noto, allora come si può difendere? Allora possono fare quello che vogliono. Allora voglio dire, e chiudo con questo, questa ha aperto, ma ci sono cose gravi in questo processo. Ad esempio, avevano cercato di aprire un altro processo con un'altra accusa di falso in atto pubblico, mentre era in corso il processo, probabilmente... Loro non erano contenti dell'andamento, la parte dell'accusa era insoddisfatta, che il giudice ripeteva, ma vi ribadisco, questo è un tribunale penale, non un tribunale amministrativo. E allora si stava chiudendo quella fase di quel tentativo di distruzione del messaggio politico di Riace, era come fallito. Anzi, sicuramente a livello mediatico è fallito, non lo possono mai più recuperare, la gente ha capito, non è che tutte le persone hanno livelli così di percezione, di sensibilità, e quindi quando poi si ripetono queste cose alla fine non ce la fanno più a ribaltare, perché il vero obiettivo non è la condanna dei 13 anni, dei 15 anni, dei 20 anni, ma è a livello mediatico, è a livello di fare passare il messaggio per distruggere quell'idea. È quello che è importante, perché poi c'è una costruzione di una realtà che non corrisponde per nulla, che è il frutto di una manipolazione di tante cose, il potere arriva dove vuole. Allora mi tentano di fare così, però... Questo è grave, nessuno mai lo riporta. Ancora io sto aspettando, non c'è stata occasione, ma non lo faccio per vendetta, ma per giustizia. E non voglio nemmeno che appaia come una retorica quello che ho detto così, ma è come sento. Mi contestano questo reato, conclusione dell'indagine nel 2019, di falso in atto pubblico, ho fatto la carta d'identità a un bambino di 4 mesi che era stato portato al comune, era arrivato a 6 giorni, quando lui aveva 6 giorni, da Reggio Calabria, da uno sbarco. Lui e la mamma, un bambino eritreo, 4 mesi, necessita della carta d'identità, perché l'STP non basta per fare la tessera sanitaria, ha bisogno il bambino perché ha un deficit enzimatico, era con una cartella clinica era venuto, bene, non aveva il permesso di soggiorno, il cartaceo, che tra l'altro, se vogliamo approfondire da un punto di vista giuridico, non, dipende dalla questura, dai loro ritardi dipende, no? E praticamente quel bambino non doveva essere curato perché la questura con i suoi comodi, io gliel'ho fatta la carta d'identità, e meno male, che sennò oggi mi portavo dentro un incubo, l'ho fatta la carta d'identità, l'ho fatta anche alla sua mamma, ma ancora oggi per me è un fatto grave questo, non voglio dire più delle intercettazioni di questo che è successo, però stranamente rimane lettera morta. Perché non mi hanno mai contestato, sebbene io abbia in ogni occasione, io non voglio essere come devo dire, cose che devo guardare solo i miei interessi, non voglio mai avere questa, non è possibile, oppure che di dire che mi avvalgo delle cose di non rispondere, io voglio rispondere, voglio che la gente sappia, è un diritto sapere, di democrazia è un diritto per tutti i cittadini, di qualsiasi parte. E allora, perché io ho fatto la carta d'identità ad una donna di 26 anni che faceva parte del nostro CAS, perché di oggi c'era CAS e SPRAR insieme, che non aveva lei il permesso di soggiorno, ma gliel'ho fatto lo stesso la carta d'identità, perché avevo capito, era un messaggio di sdegno, di ribellione come sindaco a quello che stavano facendo con il decreto Minniti Orlando. Avevano abbassato da 3 a 2 la possibilità di poter ricorrere, avevano giocato con gli esseri umani e facevano accordi poi con i lager libici, mantenevano in vita le baraccopoli, le tendopoli, Becky Moses si chiamava così. Gliel'ho fatta la carta d'identità, non le ho chiesto nemmeno per favore vai a fare la denuncia, non ho voluto perdere tempo, te lo faccio, ha detto che l'ha persa sul pullman, meno male che gliel'ho fatta, è stata ritrovata con il suo corpo senza vita nella baraccopoli, perché dopo manco un mese è morta bruciata viva, ma la procura non ha mai aperto nessun procedimento giudiziario, perché cosa? Perché se Domenico Lucano era responsabile del comune di Riace nella qualità di sindaco, responsabile legale, chi era responsabile della baraccopoli di San Ferdinando? Qualcuno ci doveva essere, era il prefetto, sono le alte autorità dello Stato, era il prefetto, perché era prefetto e anche commissario straordinario per l'emergenza San Ferdinando. Ancora oggi non c'è stata mai, per rispettare lui, che poi Salvini lo ha nominato come capo dipartimento, dove si dimette perché la moglie è implicata in una storia di caporalato, ma quella può essere pure innocente la moglie, ma dove lui è stato con le mani deve dare delle risposte, e una è questa risposta, per rispetto di quella donna che era arrivata in Italia e in Europa per vivere, e per queste stupidaggini, per queste procedure ha trovato la morte. Non c'è uno che ha messo quel fuoco, l'ha messo il fuoco dell'odio, della discriminazione e di queste leggi ingiuste. Grazie Mimmo. La contaminazione c'è stata, come sarebbe potuto essere diversamente? La contaminazione avviene per chiunque mette piede anche a Riace, perché è un posto in cui tu arrivi e ti senti subito a casa innanzitutto, e vivi la globalità, vivi la vera globalizzazione, è a Riace la vera globalizzazione che ci piace. E io devo avviarmi alla chiusura, siamo già un po' fuori scaletta, ci tengo però a far intervenire il sindaco di Scisciano per un intervento che gli abbiamo chiesto di fare. per chiudere l'intervista e avviarci fuori, perché c'è una sorpresa per Mimmo. Salve, buonasera a tutti. Vabbè, io penso di non dover aggiungere molto altro a quanto è stato detto. Mi ha fatto molto piacere questo invito, non potevo non testimoniare la mia solidarietà, la mia vicinanza a chi ha fatto dell'accoglienza, del senso di solidarietà, dell'apertura, il suo agire quotidiano. E del resto non si può non essere, ecco, solidale con chi ha accolto persone che fuggono da teatri che sono oggetto di guerra, di violenza e di sopraffazione. Io ho avuto, non so se dire la fortuna sotto certi aspetti, ma comunque è stata per me un'esperienza molto formativa quella di partecipare ai colloqui che si tenevano in questura e in prefettura per il rilascio dei permessi di soggiorno, e quindi mi è capitato di ascoltare molte storie, e questo non ha fatto che rafforzare in me la convinzione che non si può non bandire l'indifferenza. Quindi io penso che solo se tutti quanti, ecco, ci convinciamo di questo, se tutti quanti ci in qualche modo uniformiamo a questo modello, a questo schema comportamentale di riferimento che ha avuto Mimmo, potremmo costruire un mondo più aperto, più solidale, ma soprattutto dove non c'è discriminazione e disuguaglianza. Grazie. Ok, ci avviamo fuori per una sorpresa per Mimmo. Intanto Radio Plaza continua con la chiusura. C'è la mostra, vi invito anche a dare un'occhiata alla mostra di Ciccio Capasso, che è nella aula grande di là. Grazie a tutti, ciao. Radio Plaza, frequenze dinamitarde. Ed eccoci, siamo tornati, Radio Plaza ritorna, siamo in diretta live qui a Scisciano ancora, abbiamo appena ascoltato, in streaming su collettivoutopia.noblogs.org, abbiamo ascoltato e avremmo ascoltato ancora tantissimo le parole di Domenico Lucano. Radio Plaza! Passiamo alla chiusura? Prima di chiudere io voglio salutare con un dubbio, così rimane nell'aria. Vai. Lui ci ha detto che quello di Riace non è un modello, è stato un progresso naturale di rapporti umani che ha risvegliato l'identità del luogo, è stata un'accoglienza dolce, poteva essere un'occasione straordinaria. Ma le istituzioni che lui stesso ha cercato di sminuire quando è arrivato al potere, quel potere che può arrivare ovunque, lui stesso che ha cercato di governare senza governare, così come ci ha raccontato, queste istituzioni sono servite, servono o deve partire tutto dal basso? Parte tutto dal basso, secondo il nostro punto di vista. Noi siamo Radio Plaza, una radio autonoma, indipendente, autofinanziata e auto-organizzata, soprattutto una radio estemporanea, che all'improvviso compare, parla, chiacchiera, blatera anche, soprattutto. Quindi facciamo un saluto diretto, un saluto, la chiudiamo qua? Sì, scompariamo per un poco ma ritorniamo alle 19, ritorniamo dalla piazza di Scisciano ancora, sì, in diretta a dalla due passi piazza. Dal palco staremo con Radio Plaza in diretta da Piazza Borzillo qui a Scisciano. Quindi continueremo a seguire il Sanacore Folk Festival, saremo in diretta per altre due ore dalle 19 alle 21 e poi sarà in diretta in streaming anche l'evento degli eventi serali, il teatro, il la musica e la chiusura del Sanacore 2022. Vogliamo cominciare con i ringraziamenti. Ringraziamo direttamente Stefano, ringraziamo Stefano che ha intervistato, poche domande ma utilissime a farci capire il pensiero e l'agire soprattutto di Domenico Lucano. Niente male, è stato molto molto interessante. Ringraziamo Domenico Lucano che ancora una volta è transitato sulle frequenze di Radio Plaza con la sua voce, con meno le sue male, idee, ma con meno i suoi male, pensieri. Ma che piacere, che piacere. Ringraziamo tutte le persone che sono state ad ascoltare l'intervista e stanno ancora puntata. Adesso ascoltandoci, no? Le nostre radioascoltatrici preferite, pochi ma buoni, dicevano certe persone. Bene, mi è venuto in mente una cosa su Domenico Lucano e il suo esempio, che diciamo la legge del punirne uno per educarne cento non è cambiata. Sono c'è tante ancora le cose che ancora maledetti non cambiano. E allora Radio Plaza si ferma qui per il momento, a più tardi alle 19 ancora live e streaming, e intanto ci salutiamo ci con salutiamo un bellissimo brano che presenta Anna. Ci salutiamo con Asphalt Tango, Fanfare Ciocarlia, album Barobiao World Wide Wedding del 1999. Radio Plaza! We'll be right back. Radio Plaza fino all'ultima nota.